Salve cari amici, sono Stefania e sono qui in compagnia sempre con gli amici di Radio Big World, il popolo di Barabba. Oggi mi piaceva affrontare con voi, visto che il 25 di novembre verrà ricordata, è una data dove viene ricordato la violenza sulle donne, e mi piaceva parlare di questo argomento, che è un argomento davvero un grave problema sociale, ma ancor prima è un problema culturale e educativo. Sono quasi 7 milioni le donne che nel corso degli ultimi anni hanno subito in qualche modo una forma di abuso su di loro. Dalla violenza domestica allo stalking, dallo stupro all'insulto, fino a poi arrivare a quella cosa orrenda, l'epilogo di tutto questo, fino al femminicidio. Un problema davvero tanto serio. Bisogna intervenire su questo, i media per fortuna ne stanno facendo, stanno seminando davvero tanto, e anche da un punto di vista legislativo si sta facendo molto. Quest'anno sembra, anzi è stato fatto sicuramente, è stato introdotto nelle scuole il tema del rispetto. Io mi auguro che questo possa essere un percorso duraturo e fatto da persone competenti, che non sia il solito progetto usa e getta, che oggettivamente, insomma, lo sapete bene anche voi, non serve a niente, si sprecano soldi e non si incide come dovremmo. Il percorso educativo è un percorso lungo, è un percorso i cui effetti si vedono negli anni a venire e non è un risultato immediato, quello che purtroppo i nostri politici vanno rincorrendo ormai da sempre. Per fortuna è stato fatto questo coso, vediamo come va a finire. Io, come sapete, mi piace sempre partire da esperienze personali e proprio in una classe di una scuola mi è capitato, in un'ora in cui si svolgeva il nostro progetto, di avere un bambino che, se c'era qualcosa che non gli tornava, picchiava le femmine, soprattutto le femmine. Questo l'abbiamo tenuto un attimino così sotto controllo. Dopo due o tre incontri mi sono permessa di avvicinare questo bambino in privato e di chiedergli perché picchiava e poi perché picchiava solo le femmine. E la sua risposta è stata, me lo aspettavo, però sentirmelo dire è stato davvero una cosa particolare, mi ha colpito profondamente, perché il mio babbo picchia la mamma. E quindi capite bene, cari amici, che cioè i bambini emulano, non c'è niente da fare, e quando vedono atteggiamenti particolari in famiglia tendono a riproporli poi nel contesto scolastico, nel contesto del gioco con gli amici, fuori. Ecco perché è importante che nelle scuole poi vengano fatti percorsi seri da persone competenti e serie che sanno come interagire con i bambini. E non è una cosa semplice, però di persone in gamba ce ne sono, quindi evviva Dio che vengano fuori e che facciano questi interventi. L'altra cosa di questa violenza sulle donne così odiosa, insomma, mi veniva in mente che io sono stata un'impiegata nell'altra vita e avevo delle mansioni davvero interessanti e importanti che mi piacevano fare, le facevo con rispetto per il lavoro e con gratitudine nei confronti di chi mi offriva questa opportunità. La cosa negativa era che io, a pari donna, a pari merito di un maschietto all'interno dell'azienda, anche se questo maschietto aveva delle mansioni, diciamo, più blande, però lui guadagnava di più e io guadagnavo di meno. Ecco, questo io non ci ho fatto oggettivamente mai tanto caso, perché ero talmente innamorata del mio lavoro, lo facevo volentieri e quindi Però oggi, alla luce di tutti questi fatti, dico, ma se le donne sono trattate così, che fanno il loro lavoro meglio, devo dire, in alcuni ambiti rispetto ai loro colleghi maschi, perché sono più sensibili, oltre ad essere, quindi la sensibilità aggiunge intelligenza, lo fanno meglio, sono, come dire, messe in un piano secondo. E quindi perché il maschietto pensa, perché allora non posso così fare delle attenzioni a questa donna che comunque sia è subordinata a me? Questo è un concetto che passa, non c'è niente da fare. Quindi fino a che non ci sarà la parità, e io non parlo di quote rosa, anzi, guardate, il fatto stesso di parlare di quote rosa mi fa veramente arrabbiare, perché io non voglio la quota rosa, io voglio la quota che mi spetta in quanto sono persona capace di fare, e non perché sono una femmina la quota rosa. Vorrei che questo vocabolo, questa parola venisse davvero cancellata. Non esistono quote rosa, esistono quote di meritocrazia, uomo, donna che sia. Se sono una donna che vale, valgo, se sono un uomo che vale, valgo, punto. Non c'è rosa o celeste che tenga. Dopo questo sfogo, perché per me è stato uno sfogo, io vi saluto, vi ringrazio e aspetto i vostri commenti, che tardano ad arrivare. Io li aspetto ancora molto fiduciosa. Grazie.